alla valle sole, alla collina, per le campagne non c'è più nessuno. Addio, addio, amore, io vado via. Amara terra mia, amara è bella. Cieli infiniti e volti come pietra, mani incallite ormai senza speranza. Addio, addio, amore, io vado via. Amara terra mia, amara e bella. Fra gli vedi è nata già la luna, un bimbo piange all'atta, un seno magro. Addio, addio, amore, io vado via. Mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, flusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in fracco. Ha un cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, il bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido giro un papillon, un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente. Non si sa da dove viene, né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Bonnui, bonnui, bonnui, buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. La la la la, la. la la la la la la la la la la la la. Ma che cilindro, ma che fiore, ma che fracca, quale notte, quale luna, che mistero e mistero. Qua è fin troppo tutto chiaro, qua nessuno ha più voglia di fare niente, qua nessuno ha più voglia di sudare, di osare, di investire, di sacrificare. Qua tutti vogliono la pappa bella e pronta, e a me, niente di meno, proprio da me, alla mia veneranda età, con tutto il talento che mi ritrovo, mi tocca ancora di stare qua, cioncato, giorno e notte, con una pezza in culo e l'altra in fronte, a pulire, lavare, lucidare, spolverare queste quattro assi impolverate che un tempo sono state case di cuore impavidi, che avevano gambe solide e mente lucide e brillanti. Ma oggi, signori miei, oggi queste quattro assi impolverate cadono nell'oblio, coperte da quattro dita di polvere che neanche chi le calca è più disposto a togliere. Puzz! Fregato. Ah, oggi tutto è cambiato, oggi tutto è diverso, signori miei, oggi non si lotta più per niente, oggi non c'è più lo spazio per quello che una volta si chiamava valore. E questi che cosa ne sanno? Che cosa ne potete sapere voi che siete cresciuti in questo mondo qua, dove tutto è veloce, dove tutto è confuso, dove le cose prima si fanno e poi si pensano, dove persino le occasioni vanno difese con le unghie e con i denti da sciacalli invidiosi e rabbiosi che gironzolano insospettati in mezzo alla gente comune, pronti a colpirti alle spalle. Voi non potete capire, giovani miei, di che cosa io parlo, e non avete nemmeno la voglia di farlo. E come diceva mio nonno, a dono stè la voglia, è inutile che semina, che non si raccoglie. Quando ero ragazzo io, era tutta un'altra storia. Quando ero ragazzo io funzionava tutto diversamente, c'era un fermento, c'era uno slancio, c'era una passione, ma anche noi ci davamo da fare, ci ingegnavamo, ci inventavamo le cose, ce le creavamo. C'è poco da fare. Quando ero ragazzo io si stava meglio. Aspetta, io non sono uno di quelli che ragiona per luoghi comuni, si stava meglio quando si stava peggio, si stava peggio quando si stava meglio. No. Io sono uno che ragiona diversamente. Per me tutto il mondo è paese, però siccome qua chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane, io dico aiutati che Dio ti aiuta. Fidatevi di me, chi fa da sé fa per tre. Vabbè, qua va male, non va bene. Va male, non va bene. La pecora fa bene, il merlo non fa me. Quando ero ragazzo io, voi lo sapete come funzionava? No, dite. Quando ero ragazzo io, voi lo sapete come funzionava? Oh, quando ero ragazzo io, sapete come funzionava o no? E allora ditelo, che ve lo dico io come funzionava quando ero ragazzo io. Quando ero ragazzo io, funzionava così. Tu, che cosa volevi fare? Il cantante? Benissimo. E di che genere? Popolare? Benissimo! Trac! Ti davano una zappa in mano! E ti dicevano, popolare, a comincia a zappare se vuoi cantare. E oui, lo facevano anche per il tuo bene. Così tu respiravi l'odore della terra, ne comprendevi fino in fondo il valore della terra, e a forza di zappare, imparavi per bene a cantare. Eh sì, perché tu zapp e canti, canti e zapp, zapp e canti, canti e zapp, zapp e canti, canti e zapp. Muah, venivi su un fiore d'artista. Non come questi qua, questi alla mia destra. Papà, i giovani oggi, voglio fare il cantante. Trac! La chitarra in mano. E ci maffa? Così non si cresce, così non ci si sviluppa, così ci si avviluppa come un polpo allo scoglio delle proprie certezze e non si va più avanti. Infatti stiamo andando indietro. Io, detto fra noi, non sono cresciuto così e ringraziando Dio mi sono sempre trovato male. Quando ero ragazzo io, infatti, volevo fare l'attore, ma essendo nato in un piccolissimo paesino meridionale non sapevo da dove cominciare. Pensate che andai a chiedere informazione al direttore del cinema comunale. Entrai tomo tomo, timido, e dissi: direttore, scusate, a me il teatro è sempre piaciuto, mi farebbe provare a stare sul palco? Non c'è problema, disse quello. Trac! Mi piazzò in mano scubone e secchiello. Chi ama il teatro comincia da quello. Ah, veramente? Certo, così con la scusa di pulire ti potrai intrattenere con gli artisti che sul palco vedrai passare. Interessante, pensai io. Ugaz! Intervenne una vocina dentro di me. Guarda che quello ti vuole sfruttare, lascialo stare. Allora che fai? Accetti? Oh, tu vuoi recitare, perché devi pulire? Lascialo stare. È una prova per incominciare. Poi se non ti trovi bene te ne puoi pur sempre andare. Fatti pagare, almeno fatti pagare. È gratis però, il materiale per pulire io lo devo portare. Allora accetto. E vaffanculo, come ha detto? Ho detto che accetto, io non te parlo più. Bene, giovanotto, allora il patto è bello e fatto. Queste sono le chiavi e tu da domani sei il nuovo custode del cinema comunale. Le chiavi? E cosa ne devo fare? A me serve il materiale per pulire. Con calma, non avere fretta. Ascoltami attentamente. Con quella più grande tu devi aprire il portone centrale e la saletta dove trovi Scubone e Secchiello. Con quella piccolina la stanzetta per la regia. E lo devo fare io. E ti conviene, visto che ti trovi così sei autonomo, indipendente. A nessuno dovrai più chiedere niente. Ma prima come facevate? Prima veniva un ragazzo. Mio nipote ci aveva un appalto per il comune, ma quello non vuole lavorare, dice che lui deve provare. Questo fatto di chiudere, aprire, lo può intralciare, capì? Provare, eh sì, vuole fare l'attore, pure io, bravo, e da domani un cinema a disposizione, che vuoi di più? Fai questo stage e vedrai che sullo stage prima o poi arriverai. L'Italia oramai è una repubblica basata sullo stage, non lo sai? Non ti preoccupare poi, qua nessuno ti verrà a disturbare mai. Ma come no? E gli artisti quando vengono? Quali artisti? Non devo avere fretta, figlio mio. Ricordati attentamente. Fatica e sofferenza formano un attore. Anzi, fame, fatica e sofferenza formano un attore. Anzi, freddo, fame, fatica e sofferenza formano... Anzi, ma perché dice così? Lo capirai, lo capirai. Detto questo, si girò sui tacchi... E sparì e non si fece più vedere. Ma non per questo, ragazzi miei, io ho perduto la speranza. No, nein, niet, so never, good mai. Anzi, maggiormente, chino sulle pezze, giorno e notte mi dedicavo e lavavo, pulivo, lucidavo, spolveravo, porte, finestre, tende, balaustre, sivarietti, sivarioni, arlecchino, botteghino, del primo camerino ogni minimo cantuccino. Raccoglievo prenotazioni, buttavo tutti i fari di loggioni, la buca dell'orchestra, i costumi della festa, la ribalta, il bocca scena, ogni cosa di gran lena. Andare, camminare, lavorare, senza mai colpo ferire, né potersi lamentare, e soltanto per finire mi potevo concentrare e provavo a recitare. Ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori i denti. Non servo tempo fare in da una piazza. Pregava Cristo in croce e ci diceva: Cristo l'uomo padrone mi trapazza, mi tratta come un cane per la via, sapiglia tutto con la sua manazza. Manco la vita mia dici che è mia, distruggila Gesù sta mala razza, distruggila Gesù, falloma mia, falloma mia. Ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, e Cristo mi risponde dalla croce, qualche sasso spezzato li dovrà, chi vuole la giustizia se la faccia, di su normal, io la farà per mia. Se tu sei nome tu stava, ascolta bene sta sentenza mia, dai anche udata in croce non staria, se avessi fatto ciò cadi qua tia, dai anche udata in croce non staria. Lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori i denti. sono il French, pallido danese, che parla solo, che veste a nero, che si diverte nelle contese e per diletto vo al cimitero. Se gioco a carte fo il solitario, suona d'orecchio tutta l'aglione, per far qualcosa di ameno e gaio col babbo morto fo colazione. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori l'idea. Bastoni e tira fuori l'idea. Amleto, sono lo spirito di tuo padre, che una mano incestuosa strappò alla vita e di false voci riempì gli orecchi di Danimarca. Non è come tu sai, valoroso figlio. La serpe che morsicò tuo padre ora ne indossa la corona. Così, dormendo, reciso nel fiore dei miei anni, io fui in un sol colpo strappato alla vita, alla corona e alla regina. Se hai amato mai tuo padre quanto lui amò te, valoroso figlio, vendica il suo turpe assassinio per mano di un fratello scellerato. Ora, la lucciola del mattino mi dichiara che per me l'ora di andare è giunta. Addio, Amleto. Ricordati di me, ricordati di me, ricordati di me. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastoni, tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastoni, tira fuori i denti. Padre, padre, padre, ricordarmi di voi, questo io farò finché la memoria avrà casa in questo cranio impazzito. Cancellerò dal mio volto ogni luce di giovinezza, dalla mia mente ogni frivolo pensiero per ricordarmi di voi. Questo sarà il mio comandamento finché il mio voto non sarà compiuto. Io, Amleto, principe di Danimarca, l'ho giurato, l'ho giurato, l'ho giurato! Non ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori i denti. Ma che voleva Amleto? Voi l'avete capito? Voi l'avete capito? Io non l'ho mai capito. Eppure sono tanti anni che stanno tagliando, copiando, incollando, vivisezionando stu benedetto Amleto e nessuno ancora ha capito precisamente che cosa volesse. Ma che voleva Amleto? Ma dico io, ma si può essere più disperati, più afflitti e malinconici di sto benedetto Amleto? Che voleva Amleto? Poteva essere felice Amleto? No. Poteva essere amata Amleto? No. Poteva essere considerata Amleto? No, no. E allora che voleva Amleto? Boh. Quanto siete ignoranti. Non capite proprio niente. Ma proprio il cervello vacante, giovani miei. Amleto, il principe di Danimarca, voleva gioire. Voleva sognare, voleva amare forse, sì, perché l'amore... L'amore è facile, non è difficile, si andrà a succedere, succederà. Voi siete completamente ignoranti, proprio il cervello bacato ce l'avete. Proprio è inutile perdere tempo con voi, per questo io mi lamento. Io sto perdendo la vita mia con voi, perché me ne pento, mi lamento perché me ne pento. Me ne pento di aver incontrato Veco e avervi portato a lavorare Meco. Eco. Questa è l'unica sola e vera verità. Io infatti non mi sono mai lamentato prima d'ora. No, no, no, no, signori miei. Io ho sempre portato a compimento ogni incarico che mi veniva dato. Giuro, io feci il custode in quel cinema di provincia dove, per imparare, vivevo recluso per due lunghissimi anni, durante i quali successe di tutto. Il direttore e suo nipote spariti, gli assessori presi a loro, furono addirittura indagati. E oui, perché? Perché i finanziamenti se li erano mangiati e gli artisti nel paese, boh, ancora nessuno li aveva veduti. Tutti avevano capito che non sarebbero più arrivati, persino io che ero piccolo, stupido, illuso e mantenevo una speranza. Anche perché, sinceramente, l'unico essere vivente che si vedeva passare attraverso le porte e le tende di quel posto dove io per imparare vivevo recluso era Nicola, detto Colino, per gli amici Lu Frasolino! Frasolino! Frasolino! Frasolino, complimenti! Lo scemo del villaggio arrivava sempre alla stessa ora, già mezzo ubriaco, si metteva fuori la piazza del teatro e faceva ridere tutti quanti. Io sono una lampadina che si accende e che si spegne. Accendimi, spegnimi, accendimi, spegnimi, spegnimi. Piano, raga, piano, che si fulmi la lampadina, l'anima di chi va morta e stramorta, voi ce ne vogliando l'orto. E così faceva ridere tutti quanti. I suoi spettacoli finivano sempre alla stessa maniera. Grandi risate, applausi di sfottò e qualche sputata in faccia. Lui però imperterrito non si scomponeva mai. Si toglieva la giacca, la metteva per terra e aspettava di raccogliere qualche moneta con cui andare a bere all'osteria. Di tanto in tanto però Lufrasolino, prima di andare a dormire alla stazione, si divertiva a farmi spaventare. Entrava di soppiatto nel cinema dove io ero intenta a pulire e una volta alle mie spalle gridava forte: «Mi piace il teatro! Oh, Frasolì, mi hai fatto scantare! Bello, bellissimo! Anche io avevo un'amica tour, Domenico Modugno. Domenico Modugno? Ma Modugno non faceva il cantante? Anche insieme, cantante a tour! Cantatore, cantatore, cantautore forse. Anche insieme, cantatore, cantautore, tutto così. Del mio paese, il primo, no, lo zero, lo zio, il padre cantautore italiani, il PC, mai le sentite? Padre cantautore italiani. Cioè disca a casa, le vuoi? Veramente meraviglioso, era bravo, meraviglioso, e lo so, non lo conosco, meraviglioso, la canzone, mai le sentite? Ah, è una canzone. No, mi dispiace, non lo conosco. Resta con me, guarda, ho da fare. Nemmeno libero, e devo pulire. Ma piove! E io che devo fare? L'uomo in frac, esagerato. Amara terra mia, Dio inventò la donna riccia. E chi è? Nessuno può sapere. E che vuoi da me? Un'avventura, da me? Non sia mai. E allora dai, stasera pago io. Che cosa? Un caffè, già preso. Un pisci spada, non scherzare. Come stai? E ho fame. Come hai fatto a resistere? La lontananza, anche quella. Ma la razza, ma che vuoi? Blu dipinto di blu. Lì, no, volar, manca, volar, carosh. Ah, sono canzoni. È mezz'ora che mi sto a scolare. Non avevo capito. Poi lo scemo sono io. Cominciamo da capo. Meraviglioso. No, aspetta un attimo. Io qua devo pulire. Fammi terminare. Poi vengo a casa tua e me le fai ascoltare. Meraviglioso. Ho detto che non vengo. Ah, non viene più. E vaffanculo. E se ne andò. Il giorno dopo trovai fuori dalla porta del cinema due buste di spazzatura nere, piene, zeppe di dischi, vinili, libri, riviste, giornali. L'intero repertorio di Domenico Modugno a mia completa disposizione. Le raccolsi e mi fiondai nel cinema per ascoltarle. E tutta la notte pulì e ascoltai, ascoltai e ripulì. E alla fine, con un motivetto nella testa, mi addormentai. Un certo Pasqualino pescatore viveva in assoluta povertà, però sentiva sempre in fondo al cuore qualcosa che diceva un di verrà. E un bel dì giunse a Sorrento una principessa indiana, sopra un grosso bastimento la bellissima Cali. Pasqualino la guardò e Cali si innamorò ed in India lo portò. Pasqualino Maharaja a cavallo all'elefante, con in testa un gran turbante, per la giungla se ne va. Pasqualino Maharaja non lavora e non fa niente, fra i misteri dell'Oriente fa il nababbo fra gli indù. Ulla ulla ulla la, ulla ulla la, ulla ulla ulla la, ulla ulla la. 100 casse di diamanti grossi grossi, mentre i principi e potenti gli si inchinano davanti, lui si fuma il narghile, quella è cultura. Pasqualino Maharaja ha insegnato a far la pizza, tutto l'India ne va pazza, solo pizza da mangiare. Pasqualino Maharaja ha imparato a far l'indiano e da buon napoletano chiama tutti paesa. Ma di un catanapo. Ragazzi, non è... No, ma è quello che non è. Ragazzi. Canta Napoli. A che bello caffè sulla napolosa panna fa, e nessuno si spiega perché è una vera specialità. Chi adora il caffè, capisco non niente per questa città, è un'arbosa nervosa come ogni tanto so va a piglia. Come ha nascito sento bebè, che dice in quegue non può che caffè, e l'inglese si scorda il testo, me ne sa per l'espresso che te. A che bello caffè sulla napolosa panna fa, e così si è spiegato perché ha fatto tutta giornata una tazza buonata, saccata su scarpa se bevo caffè. Vabbè basta. Omaggio, omaggio. E quelle artiste, quelle artiste. Lo so, tu l'hai scelto. Gli faccio il comunista. Uno appena muore subito l'omaggio, ma non è possibile. Va bevere un caffè se trova scusa. Annacci grattati le palle. E l'offra una telata, l'offra a te. Nessuno dice no perché non offesa. So già sei tolto e son cappene tre. Ma mentre faccio con te, un'amica mi chiama e ferma da un momento, pigliamo già lo caffè. Ah, che bello caffè, ah, se la Napoli sapana fa, e nessuno si spiega perché è una vera specialità. Ah, chi adora il caffè, che si sente per sta città, è nervosa, nervosa, come ogni tanto so va a pigliare. Come a Nacho tu sento bebè, che dice in quel guano poche caffè, e l'inglese si scorda di taste, e me ne sapevi l'espresso che di. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sapana fa, e così si è spiegato perché che va tutta giornata, una tazza buona, una saccata, una scarpa, se bevo caffè. Basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, spaccata. No, scusate, mio fratello per questo mi permette. Non è possibile, non capite proprio niente, mezz'ora che sto dicendo, basta, basta. Poi dice la fuga dei giovani cervelli. Quale fuga? Quali cervelli? Voi non capite niente, ma completamente... completamente ignoranti. Cioè, ma io non capisco. Cioè, madonna, ma io come faccio? Una volta le porto a Roma in città queste scale. Modugno era un genio, sì, ma popolare. Non cafone, come voi, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba. Cafone, popolare, un'altra cosa. Popolare quando uno... insomma, è popolare. Lo dice la parola stessa. Federico, aiutami tu, come faccio a spiegare questo qua? Popolare. E infatti da noi si dice popolare, come code, ma popolare. Popolare, come la banca, popolare, che accontenta tu. Cioè la sua voce era semplice, va bene, ma enorme, potente, importante. Quella entrava nel cuore della gente, dal piccolo schermo lui bussava, entrava nelle case degli italiani, bussava al cuore, chi è? La voce di Modugno. Quelli aprivano, palapaf, e là si piazzava, e dominava incontrastatamente nei secoli dei secoli, amen. Quello fu l'unico artista a mettere piede, anche se non fisicamente, nel cinema dove io per imparare vivevo recluso. Ma io facevo sacrifici, ma buttavo veramente di caffè! Perché volevo capire! Io pulivo di notte, ascoltavo di giorno e pulivo di notte. Volevo intuire, percepire questo artista pugliese come noi, nato a Polignano a Mare, Bari, due passi da casa mia, cresciuto a Brindisi, San Pietro, Invernotico, tre passi da casa tua! Cosa voleva fare? Fuggito, emigrato dalla sua terra a Mare Bella per lanciarsi all'avventura, senza ieri né domani? Nel blu dipinto di blu, col rischio di rimanere mezza una strada anfosa. Questo avevo capito e questo avevo deciso doveva diventare anche il mio destino. Andare via, lontano, fuggire da questa terra maledetta dove mi sentivo vincolato, frustrato, sacrificato e dove la sera quando tornavo a casa tutto spompato mia madre mi aggrediva e si accaniva col suo solito ritornello. Figlio mio, quando te da sostameo? Alla scuola c'è tesimo manne da feo. E mio padre accompagnava la lamentela. Tuo figlio, ehi, tuo figlio non te ne capa da fare niente. Ma ho sento come parla. Cosa? Bene? È pronto, papà? Secondo me, questo qua diventa pure ricchiuno. Io non potevo più vivere in un posto così. Mi sentivo morire. Io che la sentivo ogni notte. Quella voce che da dentro mi chiamava. E mi tirava verso il buio, verso luoghi misteriosi, situazioni straordinarie e sensazioni differenti. E mi diceva, qualcosa è nascosto, vai a cercarlo. C'è qualcosa nascosto dietro i monti, vai a cercarlo. È nascosto e aspetta te. Io non potevo più stare in un posto così. Io dovevo andare via, fuggire, andare lontano, come Modugno, Roma, Torino, Parigi, persino Sassuolo sarebbero andati bene per me, pur di realizzare il mio sogno di fare l'attore. Detto fatto, notte e tempo, presi una giacca e una chitarra e mi buttai sul primo treno che saliva per il nord. Mi svegliai all'alba, in una stazione che non avevo neanche riconosciuta come tale, soltanto perché il treno aveva smesso di sbuffare. Assonnato, infreddolito, con un odore addosso misto di ferro, salumi stagionati, scarpe puzzolenti e rumori della notte, raccolsi le mie carabattole e mi fiondai giù dal vagone. In cuor mio, ero felice, ero finalmente arrivato in città! Tutto grigio, pieno di cemento, gente in continuo movimento, tanto fermento che andava forte in ogni direzione. Anch'io avevo voglia di andare, di tuffarmi all'inseguimento di quel correntone dell'emozione, spinto dall'ormone. Volevo catturare, sbranare, divorare quelle donnine con le scarpettine, con le fibbiettine, con le gonnelline, tutte truccatine, con le borsettine per la spesa. Ma avevo paura di smarrirmi, di perdermi, di confondermi. La città, si sa, è malandrina e tentatrice. E allora, per paura di perdermi appena giunto in The City Metropolis, cosa feci? Seguì un antico consiglio della saggezza popolare: carta canta! E corsi ad iscrivermi ad un'accademia teatrale. Lì almeno mi sarei diplomato, qualcuno avrei conosciuto che magari un giorno mi avrebbe raccomandato. Ma la cosa difficile, già da allora in città, era vivere, resistere, campare, campare soda, martini, party. Per potermi mantenere, allora, qualsiasi tipo di mestiere per me poteva andar bene. Cameriere, facchino, garzone dal barbiere, fattorino, maniscalco, carpantiere, spacciatore, imbianchino, barista, fiorista, postino, operaio dal gommista, strillone di rivista, falso cieco alla stazione, che da buon meridionale non veniva neanche male. Tutto ero disposto a fare, pur di poter continuare a resistere e studiare. E io mi impegnavo, mi applicavo di brutto, di giorno e di notte, in ogni momento. Studiavo la voce espressiva ed il movimento, il circo, la danza, il ballo flamenco, il mitico, il magico, lo sperimentale. Qualcosa di ogni stile volevo imparare, per avere più frecce nel mio arco da poter scagliare. Tempo ci volle, sapete? Ma un bel giorno ce la feci. Venni fuori dalla mia accademia teatrale, che in pugno stringevo il mio diploma d'attore. La città ormai non aveva più chance, doveva aprire le sue porte. Arrivavo io dal paesino meridionale a chiedere occupazione. Vai Davide, lo sai che mi ho laureato? Laureato Dams, Dams un Fives. Calma, calma. E così, col mio diploma d'attore stretto fra le mani, cominciai a girare per i luoghi più foschi, più fetidi e laidi della città. Iniziai dal cinema, perché avevo sentito dire che era il posto dove si guadagnava di più, si faticava di meno e si aveva una notorietà sensazionale, che per me, che venivo da un piccolo paesino meridionale, era una cosa fenomenale. La mia gente, i miei amici mi avrebbero visto nelle grandi sale. Ma quando lì dissi: scusate, per caso avete bisogno di un attore? No, non ne abbiamo bisogno. Ma io ho fatto l'accademia. Non ne abbiamo bisogno. Pff, mi sbatterono la porta in faccia. Allora passai alla televisione, almeno mia madre e mia zia mi avrebbero visto al piccolo schermo. Scusate, per caso avete bisogno di un attore? Non ne abbiamo bisogno! Ma ho fatto l'accademia! Non ne abbiamo bisogno! Urlarono da dietro la porta, già sbattuta. Passai in radio per far sentire mio padre la voce mentre guidava la macchina. Scusate, per caso avete bisogno di un attore? No, un attimo, ho fatto l'accademia! Non ne abbiamo bisogno! È uguale fu nei bar, nei caffè, nei cabaret, alla stazione. Ovunque andassi a chiedere occupazione come attore, l'unica risposta che mi sentivo restituire era: non ne abbiamo bisogno! E una porta sbattuta in faccia. Non sapevo più cosa fare. Cioè, dopo tanti sacrifici, lavori umilianti, studi pesanti e studi umilianti e lavori pesanti, l'unica risposta era quella. La gente degli attori non ne voleva neanche sentire parlare. Non mi restava che tornare a casa per lavorare con mio padre, cosa che sinceramente mai avrei voluto fare. E quando ormai ero alla stazione, sul binario, in procinto di prendere il treno per rientrare, lessi, con la coda dell'occhio, un manifesto sul muro. Oggi, in città, arriva il circo. Un segno. Sì, un segnale. Sì, questa è la mano di Dio che viene a riconciliarsi con gli artisti dopo tanti anni di conflitti eterni. E allora cosa feci? Le mollai le mie carabattole lì sul binario della stazione centrale e corsi a perdifiato fino al tendone centrale del circo. Lì chiesi ad un animale di parlare subito col direttore. Ed una volta dentro mi trovai di fronte un uomo con grandi baffi neri che mi squadrò dall'alto in basso e mi disse: attore. E c'è lì. Attore. Ah, attore! No, guarda, non abbiamo bisogno, siamo al completo. No, un attimo, diretto, vi prego. Ma io ho fatto l'accademia. Peggio padre! A me se non concessa, a noi ci serve gente pratica che butta le mani, non teorica che parla e basta. No, diretto, un attimo, ma io sono pratico. Io sputo il fuoco, vado sui trampoli, faccio girare le palle. Issa, fa girare la palla, sapesse quando ne vengono. Non abbiamo bisogno, guarda, siamo al completo. No, un attimo, diretto, ma abbiate pietà di un giovane che vuole lavorare, vi prego. Io posso pulire le gabbie, posso pulire gli animali, posso pulire pure a voi, ma abbiate pietà di un giovane che vuole lavorare, per pietà! Oh, non gridare! Alzati! Vuoi fare la scimmia? Come la scimmia? La scimmia, scimmia unica, capisci l'italiano? Sì, no, ho capito, ma in che senso? Mo ti spiego. Allora, la mia scimmia, il numero centrale della serata, si è ammalata. Se tu vuoi lavorare, io ti do un costume e tu fai la scimmia al posto suo. Diretto, ma io ho studiato danza e poesia, non c'è tempo da perdere. Se vuoi lavorare, la scimmia devi fare. Ma ditemi almeno cosa devo fare. È facilissimo. Allora, io ti do il costume, tu te lo metti. Quando arriva il tuo momento, io ti faccio un segnale e tu vai sul filo sulla gabbia del leone. La gabbia del leone, diretto, ma se mi faccio male, che per quello ti pago? Scusi, te lo paga senza niente. Allora, prendere o lasciare. Vuoi lavorare? Sì, accetto. La sera, quando arrivò il mio momento, io non potevo credere ai miei occhi. La gente sotto di me, a 30 metri nel vuoto, sembrava impazzita. Urlava, eccitata, a gran voce, il mio nome. Scimmia, scimmia, scimmia, scimmia, scimmia, scimmia, scimmia, scimmia. Sotto di me, io vedevo sei leoni che rombavano come dei motori per cercare di prendermi al volo. Ad un certo punto, la luce si spense, i tamburi rullarono. Ed io capii che per me era arrivato il momento di andare. Il primo passo andò bene, il secondo pure, ma il terzo lo mise in fallo e palabaffa, tagati dritto nella gabbia dei leoni. La gente si entusiasmò, le bestie si avventarono e men che non si dica mi ritrovai di spalle alle sbarre senza più via d'uscita. Chiusi gli occhi e mi misi a pregare. Mamma, pietà, perdonami, ma l'ho fatto solo per lavorare. Ma le bestie diventavano sempre più grandi e io sempre più piccolo. Erano a 15 centimetri, sentivo il loro fiato sul collo. Ad un certo punto, il leone più grande prese la mia testa nelle sue fauci. Non vedevo più niente e quando ormai pensavo di essere morto, sentii una vocina dalla pancia del leone che mi chiamò e mi disse: oh, voglio, non ti preoccupare, guarda che qua, tutti attori dell'Accademia siamo noi. Ehi, pagliaccio, la figlia del padrone, questa sera, dietro il carrozzone, mi ha baciato, ma tu non sai il perché. Per far dispetto al domatore, felice come un bimbo, corri, corri e tutti quanti ridono con te. La gente grida bravo, bravo, e questa sera applaude solamente te. Sul viso ti è rimasto un bacio che sognavi tanto e che ti fa impazzire. Prendi il leone per la coda, corri sul filo senza rete, poi sul trapezio a 30 metri sembri un angelo. Angelo che vola. Terra e una voglia di cantare, e se l'amore verrà sono qui, io le offrirò tutto quello che ho. Ah, è più bella l'avventura senza ieri né domani, tutto il mondo fra le mani. Con la morte nel cuore decisi di tornare. La mia carriera d'attore, prima ancora di cominciare, era finita. Tornai a casa a sistemare le mie carabattole alla bene e meglio nella valigia, pensando alle scuse che in paese avrei dovuto presentare, alla gente che avrebbe voluto sapere, oppure per tutta la vita mi avrebbe continuato ad insultare. Diavola! Beh, tardate, tappaggio da fuori, ma hanno finito i soldi di papà! Gianfranco, internazionale, beh, che stai facendo? Stai girando? La commedia. E dove stai andando? Palla madangia alla Francia. Gianfra, un paccione da mamata. Ma quando ti chiamerà la televisione che devo dire che ti conosco? Gianfranco Berardi. Berardi Gianfranco, vieni qua. Il sindaco sono. Ehi, passa dal mio studio uno di questi giorni che ti faccio avere un contributo. Mo c'è mio fratello alla regione. No, chi lo deve sapere? Non ti preoccupare. Sai, come si chiama la compagnia? Tarantelzu papà? Ah no, stai andando avanti? Bravo ragazzo, tu sei l'orgoglio e l'occhiello del mio paese. Sempre avanti, sempre avanti. E io invece stavo tornando indietro. No ragazzi, una scusa serviva. Sì. E doveva essere anche bella forte. Bella forte. Forte, poi... credibile, cioè... Comunque... Tornavo a casa dopo tanti anni di giro, ma perché? Perché? Perché? Ma perché? Perché? Perché? Ah, per mio padre. Il padre. Sì, semplicissimo, no, voglio dire, si era ammalato dopo tanti anni di lavoro in officina, aveva bisogno di una un bel tumore. Queste cose vanno di moda, no, ragazzi, fidati. Poi mio padre ha lavorato tanti anni in siderurgico all'Ilva. No, Gianfra, papà no. E allora per la mamma? Sì, sola, depressa, in menopausa. È un figlio lontano per una mamma, è un antico rovello, La cioè, mamma no, la mamma no. E allora per la terra, il territorio voglio dire, cioè la mia terra, le radici sono importanti per un giovane, il sole, il mare, poi la Puglia in fermento in questo momento. Patetico, patetico. E allora per la famiglia, dai. Ma l'hai appena detto. No, non la mia d'appartenenza, proprio la mia propria famiglia, mia moglie, i miei bambini. Ma non sei sposato, Gianfranco? Vabbè, che c'entra? Ma uno prima o poi il passo può decidere di farlo, no? Cioè, voglio dire, se un uomo si vuole realizzare a qualcosa deve pure rinunciare. Lo so, sembra un po' buddista, però voglio dire, la rinuncia è acquisizione, no? Cioè, voglio dire, 7 per 8, 46. Appunto, voglio dire, cioè, e poi... ragazzi, fidatevi di me, in Italia, in un paesino meridionale, la famiglia ci poteva stare. No, no, no, tutti ci avrebbero creduto. Cioè, io avrei poi potuto contornare, argomentare la questione che io ero stato assunto nel circo più grande d'Europa. Però voglio dire, è una vita da zingari, quello con dei bambini non si può fare. Appunto, cioè, poi una casta qua il teatro italiano, tutti padri e figli. E poi tutto questo grigio, questo cemento. Ma in realtà c'è il commento, Gianfra, cioè, va bene la famiglia, dai. Fai così. Detto fatto, notte tempo, presi una giacca e una chitarra e mi buttai sul primo treno, che stavolta però scendeva per il sud. Il treno Freccia Adriatica delle ore 21:30 è in partenza a binario 3, ferma a Alessandria, Bologna, Rimini. Che io possa essere dannato se non ti amo. E se così non fosse, non capirei più niente. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dagli spasimi tu non fossi mai nata. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io ti dico, finché sorriderò tu non sarai perduta. Ma queste son parole e non ho mai sentito che un cuore affranto si curi con l'udito, perché tutto, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, soffia il cielo. Caffè, birra, vaniglia, acqua aranciata, Coca-Cola. Caffè, birra, vaniglia, acqua aranciata, Coca-Cola, biglietti. Caffè, birra, vaniglia, acqua aranciata, Coca-Cola, biglietti. Caffè, birra, vaniglia, acqua aranciata, Coca-Cola, biglietti. Caffè, birra, vaniglia, acqua aranciata, Coca-Cola, biglietti. Caffè, birra, vaniglia, acqua aranciata, Coca-Cola, biglietti. Biglietti, biglietti. Gianfranco! Però non ti pigliare una donna riccia, tu ricci ricci devi essere l'incanto. Però dopo due mesi volete pianta. No, no, no, no, no, no, no. Il mio ritorno a casa fu una festa grande, enorme, potente e importante. Alla stazione era venuto un sacco di gente alla quale non interessava niente chi fosse o non fosse diventato più o meno importante. Addirittura molti erano venuti solamente per spifferarmi un pettegolezzo fresco dell'istante. Il cinema, dove io per due lunghissimi anni per imparare vivevo recluso e dentro il quale avevo sognato il mio sogno, cullato il mio sogno di fare l'attore, Era stato ristrutturato. Giuro, dopo essere stato un supermercato, una discarica comunale, una chiesa per evangelisti, un circolo per dopolavoristi e un bistrò per artisti, questa volta era stato ristrutturato in un teatro vero e proprio. Non stavo più nella pelle, cioè, non potevo credere alle mie orecchie. Mollai le mie carabattole lì sul binario alla stazione centrale, non terminai neanche di salutare l'ultimo parente, l'ultimo familiare che era venuto a salutare, e corsi nuovamente a perdifiato fino all'ufficio culturale del mio comune. Mi volevo proporre! No, non come attore, non volevo più essere umiliato, ma come operatore culturale. Sì, voglio dire, io avevo studiato, avevo girato, mi ero laureato, avevo un'esperienza che allora di un piccolo centro provinciale poteva servire. Ma quando arrivai allo sportello dell'ufficio cultura del mio comune, dietro, dall'altra parte, vidi un signore addormentato, sulla cinquantina, tutto bianco, spettinato, quasi sfiduciato, che mi squadrò dall'alto della montatura e mi disse: «Teatro! Qua, questo paese! Ma quando mai? Come ti permetti?» «Ah? Oh, quello là! Ma quello là è teatro, per modo di dire! Pensi che non c'è nemmeno il palco! Eh? Te lo ricordi tu? Tant'anni fa, no, ma mo abbiamo fatto i lavori, figlio mio. Quelle quattro tavolone che tu chiami palco, una grigliata a casa mia. Io, il sindaco e l'assessore alla cultura abbiamo finito tutte qui. Mo abbiamo fatto una bella lastrona di marmo, guarda, un lavoro elegante, fine e pulito. Il legno serve per saltare. E che devi saltare? Che mica una palestra, amico mio. Se vuoi dimagrire, iscriviti alla palestra. Quel teatro là deve durare, perché ci è costato un sacco di sacrifici. Pensi che ancora lo devi inaugurare? È chiaro che siamo ad aspettare l'elezione. Qua in questo paese ogni anno si è voto. Mo 30 e 31 cade pure sto governo. C'è che a fa? Un'altra inaugurazione? No. Ehi, a me non me lo metti in tasca più nessuno, figlio mio. Ascoltami a me, io lo tengo chiuso 5, 7, 10, 20 anni, quello che sia. Ma quando lo apro, a che fa non botta, che fa? Vabbè, ma voi siete artisti, guardate l'aspetto veniale delle cose. Sì, però... No, ho capito, però... Oh, che mica devi parlare sempre tu! Ascolti quelli più grandi di te! Ah, allora, io ho capito che cosa ti serve a te, eh? Mo ti dico quello che mi serve a me. E facciamo uno scambio, in perfetto stile teatrale. Chi lo deve sapere? Sì, chi lo deve sapere? In questo paese qua non succede mai niente. E non succederà mai niente. E aveva ragione. In quel paese lì non succedeva mai niente. Il teatro era stato sì ristrutturato, ma era chiuso. C'era laccato. Era stato addirittura svuotato, depauperato dei suoi ricami originari. E i velluti del piccolo cinema di provincia sostituiti da cartelli di plastica splendenti che riportavano gli sponsor più importanti della città. Le poltroncine rosse, romantiche, divelte e accantonate tutte in un angolo e sostituite da altre di pelle lucida e tigrata, disposte in una strana platea in salita. Motivo per cui quelli in prima fila, di solito le autorità, si vedevano meglio di quelli che stavano sul palco da dietro. Il palco era veramente di marmo, con una rosa dei venti scolpita al centro, tutto bianco intorno, con un tubone azzurro elettrico per l'aria condizionata. Vedere o non vedere, questo è il problema. Guardare dritto in faccia la realtà che mi circonda e mi spaventa e affrontarla con coraggio per cercare di cambiare qualcosa, o tenere tutto quanto ben nascosto dietro un velo che mi copra gli occhi e mi impedisca di soffrire. Non vedere per paura di morire e aspettare che un lontano salvatore scenda un giorno a vendicare torti antichi già subiti ma da noi dimenticati. Sperare che lontano esista un luogo migliore solamente perché è altrove, che valga tanto perché fuori, al di là di ogni pensiero che riguardi me e i miei cari. Tacere, mentire e tenere ferma in gola la mia rabbia che mi dice di lottare, di combattere e sperare per guarire da questa assurda malattia che mi frena nell'azione e mi costringe a sopportare cambiamenti impopolari che io non riesco più a capire. Fu quel giorno che io promisi sulla mia pelle che io quel posto l'avrei distrutto, pietra dopo pietra, dall'interno, senza più tornare a casa, pietra dopo pietra, prima che qualcun altro si vantasse di quello scempio come di un capolavoro, e soltanto perché nessun artista ci avrebbe mai messo piede dentro. E così, senza più tornare a casa, pietra dopo pietra, io distrussi tutto quanto: porte, finestre, tende, balaustre, siparietti, siparioni, arlecchino, botteghino, il primo camerino, ogni minimo cantuccino, tutto quanto, pietra dopo pietra, pietra dopo pietra, tutto quanto, fino a quando? Pietra dopo pietra, travolto dalla pietra. Son rimasto nel teatro del paese da cui mai riuscì a fuggire. Io provo a volare. Ogni notte aspetto l'ultimo rintocco e poi parto. Vago, cieco, sospeso in questo abisso oscuro ed uniforme che mi circonda. Prigioniero del buio, mi rifugio nel vuoto, seguendo distinto un minimo contrasto di luce. Il giorno e la notte per me sono uguali, miraggi abbaglianti, riflessi ingannatori. Esiste solo il caso. Per questo, ogni notte, io provo a volare. Spingo, cado, lotto, ricomincio, disturbando chi sta intorno, che non vuole, ha paura e mi frena nello sforzo di volare, ma non riesce, perché io so che voglio. Questo basta, fino al giorno in cui la vista mi dichiara che son salvo e lontano da quel mondo troppo oscuro ed uniforme che per anni m'ha tenuto prigioniero. E non sono più da solo. Adie, adie, adie, addio al mondo, ad un sogno mai sognato, ai ricordi del passato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. La la la la, la la la la, la la la la, la la la. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare. Di stare lassù nel blu degli occhi tuoi blu. stare qua giù con me.